perché te la sì. E tu sei in FM con Domenico, ci sono tutti gli altri in AM. Sono sull'11 Alfa, no, no. Sull'11 Alfa, sì. Allora vai nell'11 Alfa, là. Non ho capito. Ok, là, ciao. Ciao, Marcella. Appunto, perché sei troppo vicino del canale, c'è gente sulle 10. Ehi, Pier Papa, non c'era nessuno. Io stavo modulando perché sono andato sull'11 Alfa. Va bene, allora fate come vi piace. Va bene, vado lo... posto di canale, dai. Io faccio chiamate e sposto il canale. A ripollo. Allora vi lavo tanto se vi splatterano qualche volta, Va bene, dai ragazzi, io sono arrivato al parcheggio, vi saluto, dai, buonasera a tutti. Sono tutto a tratto, c'era tanta gente. E allora niente, ho detto già mi sposto di canale, adesso sono 19 anni, ma ci vedete se li sbatterò di nuovo. vedi, mi stanno sbatterando loro, Infatti. Bisogna fare una volta a testa e così non bisticcia nessuno. Ti volevo dire, dove sei arrivato domenica? Kappa. Kappa. Kappa. Tu non ci fai qua? Che giro sei? Via, ciao, salutoni. Sentito anche a te. Sì. Grazie per aver sentito. Aspetta un attimo che devo cercare che non sono in pescato di caldo. Come tutte le frequenze in casino, capito? Sono un bel che non lo uso. e quindi mi sono trovato male, gli ho detto cazzo esopero, che per ascoltato. Dico lì, non per altro, comunque caduta me la domenico, io non lo sento più, di qua non mi arriva più, perché mi arriva adesso non mi arriva più. Va bene, già te lo saluto io. Domenico, niente, al tuo velo Pompugno non ti sente più, ti manda i saluti. Ci ha fatto i contraccambi ai saluti, Domenico, hai ben sentito, t'ha detto. Sì, capo, io sono quello che aveva la macchina, con la Turbo 2001, attaccato al palo, l'ho attaccato a sera e quindi non lo sento più. Va bene, va bene. Cappa di Rogero. E allora Domenico! Cappa, cappa, già l'ha sentito, già ti ha sentito che l'ha salutato a tutti. Adesso l'ho sentito anche io. Due secondi. Non mi ha parlato, aspetta. Allora, 50. E che concetto? Allora, Domenico, mi ascolti, 100 metri per il tunnel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho piatto. No, c'è quel tema, 75, cosa hai detto? Ha detto che attenti all'anticuppia, lì è in zona negativa o sale e scendi, capito? Però c'è anticuppia a te, capito? Ah, tu mi fai con la tuba di 2001, passata per la zona della... Mi fai con la tuba di 2001, del turnout, quella della rella, passata per la zona. Esattamente 150 watt, tondi, tondi, tondi in questo momento. Come? Lui sta uscendo con l'antenna della macchina 2001 turbo, la turbo 2001 attaccata lì al terrazzino, e sta uscendo con 150 watt e tondi, tondi. È un po' zona negativa adesso, attento Domenico. Zona negativa, Domenico, magari adesso quando passa quella zona negativa dovrebbe sentire di nuovo.